Pescalone, c'era un giubbolista, è un Constat 25B, ma arrivi da una saetta con un tandem più due da tavolo, mi ricordo perfettamente. E poi si faceva notte fonda con Coso da Montedulia, con Domenico Cristal. Le torri erano quelle, quando sono arrivato qua, io, Domenico Cristal, Francesco Briscolone, insomma tutti quelli che avevano buone zone, facevamo le lotte, e me lo ricordo a lupo, Dio voglia se me lo ricordo, però mi ricordo che era già grande quando l'ho conosciuto io, capito, ero ragazzino, ed eravamo andati proprio con Walter lì da Francesco Briscolone. Radio, poi l'avevo conosciuto di persona ed era già grande, era molto più grande di me, quindi sicuramente ha superato, se non ce li ha 70 anni ci manca poco, ma secondo me li ha superati. Ma comunque all'inizio ho detto passo passo, ed era, io dicevo da dove modo, e lui mi diceva la zona, ma non capivo la loro, poi si è spostato e è andato un po' più in alto, in città sempre però, non in montagna. È andato in città un po' più in alto, che 69-95 mi arrivava la radio a bomba, amplificata con l'eco, bip, eccetera, eccetera, come lo usano i camionisti. Allora, ti dico io, dove abita? In via Valentino, che praticamente entrando a Tempio a destra, dove c'è il riformatore, salendo in alto, per la zona di Pischinaccia si chiama, capito? Lo ricordo perfettamente perché aveva detto proprio Puccio che abitava in quella zona. Se non ha cambiato casa, aveva la casa in via Valentino, all'ingresso di Tempio, a destra dove c'era il fornitore, salendo per andare alla zona di Pischinaccia, praticamente per andare lì nella zona delle terme di Tempio, dove c'è Arenaggio, così chiamato Arenaggio. Andiamo invece con la fontana all'entrata, prima di Arenaggio c'è una fontana lì sulla destra. Lui abita in una di quelle traverse dove ci sono le scuole, lo conosco bene, io ci ho lavorato, io passavo tutte le mattine, capito? Quindi vedevo sempre questa antenna, però non riuscivo a collegare chi era. Adesso mi sono ricordato, è lui. Sì, era camionista. Era camionista, c'era il camion suo e quindi faceva trasporti, un po' di tutto, capito? Il mio telefono, aspetta. Ok, sto mangiando. No, è pronto. Papà buono, adesso. Lui. Oggi Paolo vuole patate, ravioli, budino come dolce, l'ho fatto io. Poi c'è la frutta, e la frutta sciroppata. Sei grata? Buono. A chi cambia? Ma succede della sardina, quante? Hola, attenzione, canale 8, se scucci di là della Sardegna adelante ve lo comprendido. Blu, andiamo nel rientro. Ya, ci sentiamo dopo già, ok? Yeah. Voglio il telefono. Sì, voglio il telefono. Oui, come va? C'è la casina lui, non senti fa nulla. Ma l'ho proprio acceso così adesso, là, non è puro cazzo, e ho girato così dal 5 al 10, ho sentito da loro. Ma buon pranzo a tutti, io sono arrivato. Ciao, già buon pranzo. Ciao Gigi, anch'io mi avevo chiamato, là, ciao. Poi si fa tardi, un casino. Buon pranzo a tutti. A parroggio, dai, buon menestrone a tutti, dai, ho il menestrone di ieri, ciao un po'. No,